Quindi nell'Alakha del Kitzur siamo arrivati al capitolo 19, comma 6, Seif Vav. Prima però di tornare a quello, vorrei solamente citare alcune Alakhot che sono del momento che stiamo vivendo adesso. E prima di tutto un'Alakha che riguarda le quattro parashiot speciali. Cosa sono le quattro parashiot speciali? Una l'abbiamo già letta, però vediamo cosa sono. Allora, lo Shabbat che precede il Rosh Chodesh di Adar, del mese di Adar in cui ci troviamo adesso. Quale mese di Adar? Perché potrebbero esserci due mesi di Adar, in un anno, Shana Meuberet. Il mese di Adar che è vicino, che è il secondo, quello vicino a Nisan. In quel Shabbat si legge un secondo sefer, si legge la parasha di Shekalim, okay? Che è legato alla mitzvah del mezzo shekel, perché bisognava ricordare che quello che si fa oggi di Tanit Ester, giusto? Che bisognava ricordare che entro Nisan bisogna pagare la tassa, diciamo così, del mezzo shekel annuale. E questo è il Shabbat che precede Rosh Chodesh di Adar o di Adar Sheni. Se viene Shabbat e Rosh Chodesh insieme, si leggono, è uno dei casi rari in cui si leggono tre Sefarim. Uno per Shabbat, uno per Rosh Chodesh e uno per Shekalim. Qual è l'altro caso raro in cui si leggono tre Sefarim? Se Hanukkah c'è Rosh Chodesh e Shabbat insieme, allora uno per Hanukkah, uno per Shabbat e uno per Rosh Chodesh. Benissimo. Nel primo sefer si leggono sei chiamate nella parashah della settimana, vuol dire dalla sesta chiamata si va fino a concludere tutta la parashah della settimana. Nel secondo sefer si legge la settima chiamata sul sefer di Rosh Chodesh e nel terzo sefer si legge il maftir del Shekalim. Ok? Questo per ciò che riguarda il primo dei quattro. La seconda dei quattro è quello che sarà, nel nostro caso, domani e dopodomani, questo Shabbat, si leggerà un secondo Sefer e viene sempre, si legge il secondo Sefer, lo Shabbat che precede Purim. Esattamente, Shabbat si legge Parashat Zachor. Shabbat Zachor, la Parashat di Zachor è la Parashat nella quale si parla di Amalek e la Torah ci dice di ricordare ciò che fece Amalek, di non dimenticarlo. E secondo la maggioranza dei Poskim, la lettura della Parashah di Zachor è considerata una mitzvah deoraita, una mitzvah della Torah stessa. Normalmente la mitzvah di leggere la Torah è una mitzvah dei maestri, di leggere e ascoltare la lettura della Torah. Invece la Parashah di Zachor, secondo la maggioranza dei poskim, è una mitzvah deoraita, una mitzvah della Torah stessa di sentire la lettura di Zachor. Per questo motivo è molto importante, ovviamente, assistere e sentire, ma anche tenere in mente che si fa questo per uscire l'obbligo della mitzvah. E anche chi legge deve tenere in mente questo per far uscire l'obbligo chi ascolta. Questo per ciò che riguarda Zachor. Lo Shabbat che precede poi il Rosh Chodesh di Nissan, il prossimo Rosh Chodesh, in quel Shabbat si leggerà la Parashat HaChodesh. Se cade anche quello di Rosh Chodesh può uscire tre Sfarim, è vero? Anche lì. Giusto. E lo Shabbat che precede Parashat HaChodesh, che è lo Shabbat prima di Rosh Chodesh Nisan, lo Shabbat prima si chiama Parashat Parah. Quella è la terza, che sarà, nel nostro caso, noi leggeremo questo Shabbat Zachor e il prossimo sarà Parah. Parà è la parashah della Parà Adumà, cioè la vacca rossa, che descrive tutto il processo richiesto per la purificazione della persona che fosse resa impura dall'impurità della morte. E questo perché lo si legge? Perché per prepararsi per Pesach, siccome tutti gli ebrei sono obbligati a portare il Korban Pesach, e tutti vanno al Bet HaMikdash, e tutti devono essere presenti, bisogna essere puri per poter accedere al Monte del Tempio, al Bet HaMikdash, e quindi si ricorda attraverso questa lettura a tutti quanti che bisogna fare e qual è il processo che bisogna fare. Allora, quella è la parasha di Parà. E poi, come abbiamo detto prima, c'è la parasha di HaChodesh, che precede quella di Rosh Chodesh Nisan. La parasha di HaChodesh, che cos'è? La parasha nella quale, che abbiamo letto già nella parasha di Bo, è la parasha nella quale si descrive come gli ebrei devono fare il calcolo dei mesi e che devono santificare ogni mese, visto che il primo di questi mesi è Nisan. Allora, prima del Rosh Chodesh Nisan si legge la parashat HaChodesh. Ora, oltre al Zachor, che molti ritengono che è una mitzvah de oraita, una mitzvah della Torah sentirla, anche Parà, alcuni poskim sono dell'opinione che sentire anche la parashat di Parà è anche una mitzvah de oraita. Normalmente, quando c'è la chiamata di Maftir, che è, diciamo così, la chiamata in più, abbiamo 7 chiamate e poi abbiamo Maftir. Visto che è, per così dire, una chiamata in più, cioè che è legata in realtà alla Haftarah, non alla lettura stessa, è una chiamata che per l'Halakha si può dare, questa chiamata, anche a un bambino che ancora non ha fatto Bar Mitzvah. Se si tratta però del Maftir di Zachor o di Parà, che potrebbe essere un obbligo de oraita, allora quello non si dà a un minorenne che non ha fatto Bar Mitzvah, perché essendo un obbligo de oraita deve essere fatto da chi è obbligato, non è più una cosa in più, diciamo così, tra virgolette, in quel caso del maftir. Questa è la differenza, un'altra differenza per capire se, che viene dal fatto che è de oraita o no. Ok? Ora, per ciò che riguarda Purim, abbiamo già visto negli ultimi giorni molte delle halachot di Purim, e quindi solo alcuni punti. C'è scritto che è bene vestirsi in maniera bella in onore della lettura della Megillah. Questa volta è sabato sera, quindi è sicuro che siamo già vestiti bene per Shabbat. Però in generale anche è così. E durante Arvit di Purim, cioè sabato sera nel nostro caso, e Shacharit la mattina dopo e Mincha il pomeriggio successivo, bisogna aggiungere nella Amidah la formula Ve'al Hanissim, o Al Hanissim, cioè la formula nella quale si ringrazia per i miracoli, e nello specifico si aggiunge un brano che è legato a Purim, simile a quanto facciamo a Hanukkah, però ovviamente non abbiamo 8 giorni per abituarci, bisogna fare attenzione che è solo un giorno Purim. Anche se Purim Shushan, il giorno successivo a Purim, è un semifestivo, non si dice Tachanun, però non si inseriscono le formule di Purim, solo nel giorno, nelle 24 ore di Purim, in questo caso da noi domenica 14 di Adar, sabato sera. L'obbligo appunto di sentire la Megillah è, sia per uomini che per donne, la notte di Purim e poi il giorno, e chi non ha possibilità di sentirlo al Tempio si può sentire anche in un altro luogo, e assicurarsi di sentire la Megillah. Come? Ok, non dico tutto perché tante halakhot negli ultimi giorni le abbiamo viste, quindi dico solo l'essenziale. Quindi anche registrata si può sentire? No, bravo, l'abbiamo detto però, ah. No, tu non c'eri. No, registrata no, bisogna sentirlo dal vivo. La lettura della Megillah con la Berakha si può fare dalla pergamena, scritta, leggerla o sentirla dal vivo. Abbiamo detto che in caso estremo, in cui è impossibile sentire o leggere la Megillah da una pergamena vera, allora si legge da un libro. Meglio leggerlo da un libro che sentirlo registrato. Almeno lo stai leggendo. Ovviamente senza Berakha. Rav, è legata sì? A Minyan? C'è un Minyan per leggere la Megillah? Non è necessario, nel senso, si legge la Megillah anche se non c'è Minyan, certo. Ma è meglio che ci siano più persone possibili per l'onore della mitzvah. Sì. Però no, non è come il Sefer che esatto. Solo se c'è Minyan si può leggere il Sefer. Anche senza Minyan si può leggere la Megillah. Si deve leggere, abbiamo l'obbligo di leggere la Megillah. E invece le altre mitzvot di Purim, a parte la Megillah, come abbiamo anche già ricordato, lo dico solo per dire una cosa completa, la mitzvah del Mishloach Manot, Abbiamo detto qual è la mitzvah del Mishloach Manot durante il giorno di Purim. Queste mitzvah sono solamente durante il giorno, non la sera prima. Bisogna inviare a un amico un dono che è composto da almeno due tipi di cibo. Questo è il minimo. E sono diversi, no? Sì, bravo, due tipi, bravissimo. E un dono di denaro a almeno due poveri. Ok? Questa è la terza mitzvah. E la quarta mitzvah è quella di fare che cosa? Il banchetto, il mishte. Fare una seudà importante, gioire con la famiglia, raccontare la storia, approfondire, bere il vino. Una seudà che va da un orario normalmente tardo, perché tutta la mattina c'era Megillah, Mishloach Manot, feste varie, quello che è. Poi si va, può andare fino in mezzo alla notte. Nel mishte. Per sì. Poveri solamente ebrei o anche... Allora, nel Purim c'è una regola che chiunque chiede bisogna dargli. Non si può rifiutare nessuno a Purim. Domenica te lo vengo così. Però... a kol ha-poshet yad notnim lo. Chiunque, come dire, allunga la mano, bisogna dargli, non si può rifiutare nessuno. E quel negro che sta lì ne dico. A tutti bisogna dare, però la mitzvah Mishloach Manot bisogna comunque fare attenzione, non Mishloach Manot, ma trot levionim, di dare a due poveri ebrei. Poi aggiungi quanto vuoi, però sicuramente rientri nella mitzvah facendo prima questo. Va kasha. Una persona che è di lutto. Una persona che è di lutto, che nei 12 mesi limita questioni di simcha, di gioia, comunque, anche se sta nei 7 giorni addirittura del lutto grave, è comunque obbligato a queste mitzvot in matanot levionim e lishloach manot. Lo fa nel minimo richiesto. Però alla persona che sta di lutto non si manda a lui mishloach manot. Ah. Ok? Ma se è povero bisogna dargli i doni di denaro, anche se non è, anche se sta di lutto, perché comunque la mitzvah è sempre lì di tzedakah. Bene, il giorno dopo Purim, che si chiama Purim Shushan o Shushan Purim, che come abbiamo studiato l'altra volta è Purim in altre località, non si dice Tachanun. Si limita, è vietato l'elogio funebre, Hesped, è vietato il digiuno. E si usa un po' gioire, ma non c'è alla Nisim, non c'è un'aggiunta di una formula e non c'è la Megillah, chiaramente. Purim non ci si sposa perché c'è la Megillah, però Shushan Purim ci si può sposare, quindi se qualcuno si vuole sposare Shushan Purim, basta che ci invita. E anche nel 14 e 15 di Adar, che non è Purim, cioè nel primo Adar, se ci fossero due Adar, e Purim si festeggia nel secondo Adar, ma anche quando arriva la data del 14 e il 15 del primo di Adar non ci sono formule da inserire, però non si dice Tachanun e sono considerati semi festivi questi giorni di 14 e 15 di Adar. Come si fa a capire primo Adar, secondo Adar, in base a che cosa uno sta? Bisogna guardare il calendario. Lo so, ma va finita, il primo Adar va bene, il secondo va meglio, non ho capito. Ah, ok, te lo devo spiegare dopo, te lo devo spiegare dopo. Quando guida ti spiega. Sì. Allora, torniamo alla nostra halakha, Mashiva Ruach, al capitolo 19, paragrafo 6. Scusa, prima che... Sì? Sì. Una cosa hai detto prima. Che non si può accedere al monte del tempio se non si è puri, no? Giusto. Allora, quelli che vanno oggi a pregare non ci potrebbero andare in teoria. Oggi, no, oggi c'è una grande controversia. Perché è ancora vietato oggi come era una volta, non c'è nessuna differenza. E quindi la maggior parte dei rabbanim dicono che non bisogna salire sul monte del tempio oggi, perché non abbiamo modo di diventare puri, di questo tipo di purezza. Alcuni dicono che sanno esattamente il punto. Alcuni punti dove si potrebbe accedere, che non hanno quella che Dusha e che si può accedere, e lo fanno. Però la maggior parte dei rabbani consigliano di non farlo, perché è un divieto molto forte se per errore si entra in un posto dove non si può. Allora è meglio evitare. Però ci sono alcuni che sono molto sicuri di sé e dicono no, noi sappiamo esattamente com'è, e lo fanno. Rischio. Sì. A parte la parte del Monte del Tempio non è accessibile. No, è accessibile. Sì, sì, cioè, sì, come, si può accedere. Per visitarla, per ma visitare. Non per pregare. Cioè, no. Non ci può manco accedere. Non sulla carta, certo. Cioè, sulla carta accede. Per pregare, cioè, non metti là, a volte è anche difficile accedere, vero? Non accedi, sì, sì. Purtroppo. Sì. Infatti, cioè, comunque, le preghiere che si fanno sono sotto le mura. Sì. Certo. Quindi là si può stare, no? Sì, certo. Fuori dalle mura, sì. Fuori dalle mura. Quando stai al Kotel non stai sul Monte del Tempio. Sì, sì. Non c'è nessun problema. Ok, allora, Imta'a, abbiamo studiato le regole che riguardano il iniziare a dire tal umatar, cioè la formula invernale della richiesta vera e propria della pioggia, giusto? Ora, Imta'a, se la persona ha sbagliato, ve lo amar tal umatar, e non ha detto, non era abituato perché abbiamo appena cambiato, no? Succede. Dimenticato e non ha detto talumatar. Im nizkar, se se ne accorge, kodem shesiyem haberacha, prima di concludere la beracha nella quale si trova, cioè mevarecha shanim, omer sham, dice lì, no, non l'abbiamo fatto, abbiamo fatto quello simile del tal. Ascolta. Omer sham, dice lì, a quel punto, aggiunge le parole veten talumatar livrachal pne adama, come se fosse in mezzo alla bracha, vesabenu, e continua a concludere normalmente, cioè torna indietro. Se ancora non ha detto baruch ata Hashem varecha shanim, non ha ancora detto la formula finale della bracha, torna indietro e dice veten talumatar e prosegue fino alla fine della bracha di nuovo. Ok? Se non ha ancora concluso, però se ha già concluso, veim lo nisgar. E se invece se non se ne è accorto, ad leachar, fino a dopo Shechatam, che ha concluso haberacha, ha detto Baruch at Hashem, mevarech Hashanim, allora lì cosa deve fare? Mitpallel lehalan, continua a pregare, e poi, ubetoch birchat Shema Koleinu, all'interno della beracha intitolata Shema Koleinu, Hashem Elokeinu Chus Verachem, all'interno di questa beracha, esattamente al punto Achar Reikam Alteshivenu, dopo che dice le parole Reikam Alteshivenu, non rifiutare la nostra tefilà, allora lì aggiunge Veten Talu Vatar Livracha. Le tre parole, Veten Talu Matar Livracha, e poi prosegue, Ki Atashomea Tefilat Kolpe, cioè all'interno dello Shema Kolenu. Ok? Esatto. Filu imlon isgar, anche nel caso in cui se ne è accorto, la rakachar sheamar baruchata, dopo che ha già detto baruchata ma non ha detto ancora il nome di Hashem, kol shelo amar adain et Hashem, non ha detto ancora il nome, yacholomar, ancora lì può ancora dire di nuovo veten talumatar libracha e ripetere ki ata shomea tefilat kolpe e poi concludere baruchata Hashem shomea tefila. Ma se ha già detto anche shomea tefila e non ha detto il talumatar, avalim lo nisgar, se non si è ricordato, ad leachar shesiema beracha, shomea tefila, finché non ha già concluso tutta la beracha di shomea tefila con la conclusione, allora cosa deve fare? Choser umatril barech aleinu. Il kitzur Shulchan Aruch dice, deve tornare indietro a barech aleinu e riprendere la midah da lì. Ok? Mentre invece, se ancora non si è ricordato, ha finito Shema Koleinu, non si è ricordato, non è tornato indietro, Veim lo nisgar, non si è ricordato ancora, Ad leachar sheamar et hapasuk yul leratzon, finché non ha già concluso tutta la midah dicendo yul leratzon imrefi vegion libi lefanecha Hashem tzuri vego ali, allora choser le rosh tefila, deve ripetere tutta la midah. Se vi ricordate, abbiamo visto che c'è un'opinione diversa riguardo a questa cosa, perché parlavamo del... Deve ripetere se ha superato tutto, praticamente. Sì. Ha concluso la conclusione ufficiale Yule-Razon, anche se non ha preso Elokai Netzor. Come quando quello di Roscoe, che non l'ha detto e l'ha ripetuto. Ok, però bisogna precisare una cosa importante. Quando abbiamo parlato di Mashiva Ruach Morida Geshem, abbiamo detto l'alaha simile a questa, poi abbiamo detto che però ci sono altre opinioni nei poskim, che se una persona ha concluso la Berakha, ok, ma non ha ancora iniziato la Berakha successiva, cioè nel caso che ha detto Mevarech Hashanim, concluso la Berakha, ma non ha ancora iniziato la prossima Berakha, cioè Tekah Beshofar Gadol Lecherutenu, allora tra una e l'altra può dire Veten Talumatar Livracha, senza dover aspettare Shema Kolenu o tornare indietro. Ugualmente, se si è dimenticato, non l'ha detto, è arrivato Shema Kolenu, si è ricordato, e non l'ha inserito nel Shema Kolenu, stessa cosa, se ha finito Baruch Atah Hashem Shomea Tefila, non ha ancora iniziato Retzeh, Hashem Elokeinu Melech Yisrael, dice Uvten Talumata Livracha. E questo si può seguire alachicamente così. Senza, se uno si ricorda, chiaramente, poi se uno si ricorda c'è niente da fare. Un attimo. Sì. Diciamo che uno fa la midà, no? Sì. Però mi accorgo che ho sbagliato. In cosa? In questo? Il momento che tu stai ripetendo la midà, perché non lo so, perché non posso parlare prima, no? Quindi nessuno parla. Mi rendo conto che l'ho dimenticato, che ho sbagliato mentre tu fai la ripetizione. Devo rifare, ad aspettare che tu finisci la ripetizione e rifare la midà o interrompo prima? Come interrompi? Nel senso, tu stai ripetendo la midà, no? Tu devi ripetere la midà. Non importa se tu stai già ripetendo la midà, devo aspettare che finisci di ripetere. Sì. Devo aspettare che finisci? Sì. Grazie. Ah. Okay. Invece, Rav, una cosa, se uno pensa di aver sbagliato, però poi anche tutte queste cose, c'è un momento di confusione, dice oddio che devo fare, non mi ricordo. Nell'errore, per non sbagliare, si ferma. Se tu parli del dubbio. E ricomincia tutto da capo. No. No, nel dubbio non torna indietro. Abbiamo spiegato. No, l'ho detto. Cioè, però c'hai il dubbio, ce l'hai, cioè di aver sbagliato. Il dubbio di come risolvere. Il dubbio di come risolvere. Non il dubbio di non averlo detto. Ah, cioè tu sai che non l'hai detto. Io so che non l'ho detto, però ho il dubbio adesso di come recuperare. In quale caso mi trovo di questi? In quel momento non realizzo. Perché ho detto. Sì, ma sai dove stai nella tefilà? Sì. Sì. Allora, se stai prima di Shema Kolenu, sai che puoi rimediare a Shema Kolenu. Se hai concluso la Berakha e ancora non hai iniziato Tekah Beshofar, sai che puoi iniziare Tekah Beshofar. Ma forse la domanda sua è proprio se in quel momento ho confusione e non ricorda quale caso cioè, è. Non sai che non hai detto Veten Talumat HaLivracha, ma non sai cosa fare. Sì. Diciamo sì. Così. Diciamo così. È un po' però, no, poi magari, cioè, non hai o studiato bene o non ti ricordi, o non ti ricordi bene. No, allora, comunque non è che per questo si comincia da capo per essere sicuro. Ecco. No. Anzi, è meglio se non sai cosa fare proprio, è meglio concludere e poi chiedere dopo se devi ripetere o no. Però non così per il dubbio con ripetere. Se no è troppo... No? Ok, allora, numero 7, studiamo così. Taba Kaitz. Se durante il periodo estivo la persona per errore dice Viamar Talumatar, chiede la richiesta delle pioggia nel periodo estivo, dopo quando è Pesach già non si chiede più. Cosa fa? Joser Umatril Barech Alenu. È arrivato nel mezzo di Barech, Barechenu, ha detto Barech Alenu, ha chiesto Veten Talumatar. Cosa sto dicendo? Deve iniziare da capo Barech Alenu. E omettere la formula invernale, ok? Stiamo parlando che non l'ha conclusa ancora. Però, e non solo, Vim lo nisgar adle achar shamar et hapasuk yule ratzon, se ha già concluso la Amidah e si è accorto che ha detto la formula invernale nell'estate, allora Joser le rosh tefilah deve ripetere la Amidah, senza la formula invernale. Non ho capito, aveva detto che ripete Berakha Alenu. Se non ha concluso la Berakha. Ah, se non l'ha conclusa, sì. Ora, per ciò che riguarda Mashiva Ruach, torniamo un attimino a parlare di Mashiva Ruach. Im nistapek otto, chet. Im nistapeklo. Se la persona si trova in dubbio. Im amar Mashiva Ruach o lo amar. è già il periodo dopo Shemini Atzeret in cui si dice Mashiva Ruach, e non è sicuro, ho detto Mashiva Ruach o non ho detto Mashiva Ruach? Dubbio. Allora, im hu leachar sheloshim yom, se sono già trascorsi 30 giorni da quando abbiamo iniziato a dire Mashiva Ruach. Perché 30 giorni? Dice Shekvar hitpallel tish'im peamim karaui. Probabilmente ha già pregato 90 tefilot Amidah, perché 30 giorni sono 90 Amidah almeno, in cui ha detto Mashiva Ruach. Solo adesso gli è sorto il dubbio, ma normalmente non aveva il dubbio, ok? Allora, se, noi consideriamo che la persona è già abituata. Se ha il dubbio, lo diamo per scontato che l'ha detto Mashiva Ruach, in questo caso che sono già passati 30 giorni. Perché è probabile che la persona già si sia abituata. Chezkato, la parola, il termine ebraico chazaka, che vuol dire... si presume, bravissimo, la presunzione è che ha fatto quello che doveva fare, visto che è già passato tutto questo tempo e probabilmente si è già abituato. Chezkato, la presunzione è che anche ora ha fatto la tefilah secondo quanto è richiesto, dicendo Mashiva Ruach. Però se ci troviamo ancora nei 30 giorni, allora forse non è ancora così abituato e può darsi che davvero non l'ha detto. Perché di nuovo, lui sta in dubbio, non è sicuro. Allora, nel caso sono già passati 30 giorni, portiamo il dubbio verso la sicurezza che della probabilità dell'abitudine. Se siamo all'interno dei 30 giorni, portiamo il dubbio verso l'insicurezza della probabilità e quindi deve ripetere. Betoch 30 yom tzarich lachzoru litpalel. Nell'interno dei 30 giorni, da quando si inizia da Shemini Atzeret, deve iniziare a riniziare da capo la tefila. Ok? Vechen betal umatar, stessa cosa riguarda il tal umatar, la richiesta della pioggia nel Barech Aleinu. Im mistapek lo, se la persona è in dubbio, leachar shekvar itpallel tishim tefilot karaui, dopo che ha già fatto 90 tefilot, quindi 30 giorni di tefilot come si deve, allora mokmina na chezkatei, di nuovo ci si fonda sulla chazakah, sulla presunzione che l'abbia già fatto, che si sia già abituato, shegamata, che anche ora itpallel karaui, che ha pregato come si deve. E kodem laken, però prima di questi 90 tefilò, 30 giorni, tzarich lachzoru litpalel, deve ripetere la Amidah. Se in dubbio, ha finito di pregare, nel dubbio non sono sicuro se ho detto vetten talumatar o no, deve ripetere la tefilà. Scusa. Quindi è lo stesso schema impostato nei due momenti dei due gambi, diciamo. Sì. Ora, una halakha particolare che riguarda Pesach. Vediamo un po'. Ta'a b'mariv leil rishon arvit, la prima sera di Pesach, la persona ha fatto un errore, al numero tet. Ta'a b'arvit, mariv, leil rishon shel Pesach, la prima sera di Pesach, la persona si è sbagliata e ha fatto un altro tipo di errore, vit pallel, la tefilah, la amidah, tefilat shemon esre, la amidah, shel chol, ha fatto la amidah dei giorni feriali, per sbaglio. Pesach, moed, succede? In particolare qui stiamo parlando di Pesach, la prima sera di Pesach, entra Pesach e lui invece di dire la Midah di Moed ha detto la Midah dei giorni feriali, ok? La halakha è che se tu stai dicendo la Midah dei giorni feriali e poi ti accorgi in mezzo che oggi è Moed, devi comunque concludere la Berakha che stai in mezzo a recitare, puoi lasciarla in mezzo per aria, la devi concludere e poi tornare indietro a fare la Midah di Moed. Ora, se questa persona la prima sera di Pesach sta facendo la Amidah di giorni feriali, ha iniziato la Berakha di Barech Aleinu, la Berakha nella quale si parla dell'inverno o dell'estate, allora la deve concludere, perché non può lasciarla per aria in mezzo. Cosa deve dire? Formula estiva o formula invernale? Questa è la domanda che affronta qui. Allora dice, Venizkar leachar sheitchil Barech Aleinu. Lui si è accorto che sta facendo la Amidah feriale, nella Berakha di Barech Aleinu, e comunque la deve concludere. Se adin hu, la regola è, la norma richiede, se tzarich lesayem kolota Berakha, che deve concludere quella Berakha. Allora dice, eino omer talumatar, non è tenuto a dire nell'uno, Talum Atar, esattamente, non dice, non fa la richiesta della pioggia, anche se il cambiamento ufficiale è domani a Musaf, che si va da Mashiva Ruach a Morida Tal. Ok? Però lui non è obbligato a dire Talum Atar perché? Perché anche tutto il resto del pubblico non lo stanno dicendo, visto che non appare nella Tefilah di Moed. Ok? Kevan shegam hatzibur einam omrim, visto che lo tzibur, il pubblico, non lo sta richiedendo, anche lui, purché, cioè nonostante stesse facendo una amidah feriale, comunque non è obbligato a chiedere Talum Atar Libraha, anche se non è stato ancora fatto il cambiamento ufficiale. Perché il pubblico non sta richiedendo adesso Talum Atar. Chiaro? Era pure l'altra volta dopo questa cosa. Quale? Perché proprio quella a Musaf perché si proprio fa, a Musaf si cambia. Si cambia. E non ha tipo a Minca. Non ha Arvit. Ah, aveva fatto a Chezzo Aria l'altra volta. E non però aveva detto dove avete la fonte. Sì, non mi ricordavo. Ancora me lo devi ricordare col messaggio. Se no andiamo, usciamo fuori da qui, ci dimentichiamo tutti. Vim Chala Hashela. Ma io ho capito a Minca pure. No, non Musaf. No, cioè i cambi in generale si fanno sempre. Il cambio da quando si inizia Mashiva Ruach, Musaf di Shemini Atzeret, quando si inizia Morid Atal, Musaf di primo giorno di Pesach. Vim chala sheila biyom Shabbat. Se il giorno in cui si inizia a chiedere Talum Atar, 4 o 5 dicembre, viene di Shabbat, quindi stessa problematica, no? Perché è Shabbat e la persona per sbaglio fa la tefilah del giorno feriale. Tavit Pallel Shel Chol ha fatto la tefilah di feriale. Itchil Barech Alenu ha iniziato Barech Alenu, non la può, la deve concludere per forza. Gam Ken e in Omer Talum Atar, anche lì in quel caso non dice Talum Atar. Perché? Perché essendo Shabbat, anche il pubblico, stessa motivazione, anche il pubblico non stanno ancora dicendo Talum Atar. Sì, è vero che è arrivata la data, ma il pubblico ancora non ha fatto la richiesta Talum Atar perché è Shabbat. Shabbat non si dice Barech Alenu. Di conseguenza, anche lui non deve fare la richiesta di pioggia nella sua tefilà, che sta facendo per errore. Perché, come conclude in una regola generale, Ve'ayachid nigrar tamid achar hatzibur, ovvero, il singolo ha sempre l'obbligo di adeguarsi al tzibur, alla comunità, al pubblico. Sono tutti buoni motivi perché uno deve stare attento a quello che fa e non avere... Certamente, per questo anche si cerca di annunciare sempre nel Beta Knesset si annuncia oggi si inizia Talum Atar, oggi si dice Yale Vayavo, o Anenu con me stamattina e così via. Ok? Benissimo. Prossima volta vedremo le regole del Yale Vayavo di Rosh Chodesh.